Monti a tutto campo a Piazza Affari, l'accordo sul lavoro si farà, poi la parola tornerà alla politica e sul fisco annuncia le risorse della lotta all'evasione e ai lavoratori onesti. Lavoro in corso, un nuovo tavolo, Fornero, la riforma degli ammortizzatori sociali arriverà in autunno. In Afghanistan morti 3 militari italiani, un incidente in una missione di soccorso. In tribunale in India i marò italiani rischiano anche la morte, il ministro Terzi, molte divergenze sull'accaduto. E buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Riforma del lavoro, ma anche, come dicevamo, ritorno della politica, fiducia nell'Italia, il futuro dei giovani. È stato, insomma, un intervento a tutto campo quello del premier Mario Monti, che questa mattina ha parlato a Piazza Affari. Forse deluso chi si aspettava un intervento più tecnico, di certo Monti ha ancora una volta tracciato la rotta e ha dato anche un termine al suo lavoro, dopo il quale ha detto la parola tornerà alla politica in senso stretto. Allora sentiamo nel dettaglio però le sue parole e torniamo a Piazza Affari da Anna Marino. Sì, buongiorno Anna. Un intervento denso di annunci di scadenze importanti sul fronte delle riforme, della crescita, quello del Presidente del Consiglio Mario Monti davanti al Gotha finanziario. Innanzitutto il lavoro, sentiamo. Siamo molto fiduciosi che entro il termine che ci siamo dati di fine marzo potremo presentare al Parlamento un provvedimento con l'accordo delle parti sociali. Lo presenteremo comunque, speriamo di presentarlo con l'accordo delle parti sociali. Il Premier ha inoltre ribadito l'impegno sul conseguimento del pareggio di bilancio nel 2013, un paio di anni prima degli altri Stati europei, e ha rassicurato platea italiani escludendo future misure non ci sarà bisogno di una nuova manovra, ha sottolineato il Premier, perché sono incorporati margini di prudenza. Inoltre il Presidente del Consiglio ha annunciato un'altra importante scadenza sul fronte fiscale. Sentiamo. Noi abbiamo un obiettivo evidentemente di ridurre il disavanzo pubblico, ma abbiamo anche l'obiettivo di restituire perché non sono le stesse tasche, ma di far affluire ai contribuenti onesti in forma di minore aggravio fiscale, via via che il tempo lo consentirà, il gettito della lotta accresciuta contro l'evasione. Domani, ha aggiunto Monti, sui siti usciranno non richieste dalla legge le dichiarazioni patrimoniali dei membri del governo e il governo stesso proporrà di fare lo stesso a tutto il personale politico e amministrativo di alto livello. Maggior impulso poi va dato alla Borsa Italiana, una delle ricchezze del nostro sistema. Il numero delle società quotate è ancora inferiore, ha detto Monti, rispetto alle altre realtà europee. Una borsa con un numero più alto di imprese quotate può dare un contributo fondamentale per la crescita. E infine ha richiamato tutti alla fiducia verso il nostro paese anche dopo il suo governo. E che al più tardi nella primavera dell'anno prossimo ci sarà un ritorno pieno, non dico della democrazia perché siamo nel pieno della democrazia e del rispetto della Costituzione anche oggi, ma un ritorno pieno delle forme consuete di governi animati dalle forze politiche in prima persona e non attraverso una sorta di intercapedine come oggi, ma io sono sinceramente convinto, questo è quello che dico all'estero, ma voglio dirlo anche in Italia, che bisogna avere fiducia lo stesso. E grazie dunque ad Anna Marino, così il Premier Monti, dicevamo, questa mattina a Piazza Affari. E in questo istante invece sta parlando da Cagliari il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Vediamo se riusciamo a farvi sentire in diretta le sue parole. Per esempio Emilio Lussu, che è stato uno straordinario combattente antifascista, uno straordinario democratico, e non potete immaginare il fascino che aveva come oratore. Era un oratore forte, roccioso quando partecipava al movimento. Allora torniamo magari più avanti a Cagliari. Nel frattempo, dicevamo, Napolitano sta parlando, ma Monti ha parlato anche invece dell'incontro a Roma per discutere della riforma del lavoro. Ieri la leader della CGIL Susanna Camusso ha avvertito che è presto per dire che l'intesa è vicina. Ottimista è sembrato il Premier questa mattina. Allora sentiamo come sta andando da Vincenzo Miglietta. l'ultimo giorno è iniziato alle 12.15 il nuovo faccia a faccia tra governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro. Sull'incontro pesano inevitabilmente le dichiarazioni di questa mattina del Premier, laddove Monti ricorda che la riforma sarà varata entro marzo con o senza l'accordo di sindacati ed imprenditori. Un contingentamento dei tempi della trattativa, questo che non piace ai rappresentanti dei lavoratori. Solo ieri dalla CGIL la Camusso ricordava è presto per dire che l'intesa è vicina. Il tema del confronto di oggi che preoccupa il sindacato è quello degli ammortizzatori sociali, le risorse necessarie per rendere effettivo questo strumento. In particolare l'ipotesi avanzata dal ministro del welfare Fornero è quella dell'abolizione della cassa integrazione straordinaria e dell'arrivo del sussidio di disoccupazione. Questa riforma, ha rassicurato comunque poco fa il ministro del lavoro, non potrà partire prima dell'autunno 2013. Nei prossimi incontri, ha detto ancora la Fornero, si parlerà di flessibilità. Sullo sfondo resta poi il discusso articolo 18 con la polemica tutta nel centro-sinistra con il PD spaccato. Per Veltroni non è un tabù, la norma non si cambia, ribadisce però il responsabile economico del partito Fassina. E da Roma è tutto. E grazie a Vincenzo Miglietta. La coesione sociale è importante, sono state invece le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ma ha aggiunto questo non significa immobilismo, ma bisogna mettere in piedi un sistema di welfare, sicurezza e sicurezza sociale diverso da quello che è stato creato in passato. Torniamo a Cagliari, sentiamo ancora cosa sta dicendo Napolitano. Nazionale della coesione sociale e istituzionale su basi democratiche rappresenta oggi una grande fondamentale risorsa per affrontare le dure prove che abbiamo davanti. Ed è stato veramente straordinario il modo in cui tanta parte del paese ha partecipato a quelle celebrazioni con iniziative partite. E così dunque Napolitano, sentiremo stralci del suo discorso anche nelle prossime edizioni di GR24. E intanto sentivate fiato sospeso in Europa per l'Eurogruppo che nel pomeriggio dovrebbe dare il via libera al pacchetto da 130 miliardi per scongiurare la bancarotta della Grecia. I mercati finanziari europei viaggiano all'insegna dell'ottimismo. Andiamo anche a Bruxelles dove c'è Antonio Pollio Salimbeni. Buongiorno. Buongiorno a voi. Tutto deciso o ti aspetti sorprese? Questa è un po' la domanda che tutti si fanno. Beh, tutto deciso direi di no. Qui c'è grande prudenza. Adesso si è appena concluso il briefing dell'incontro con la stampa classico di mezzogiorno alla Commissione europea e il portavoce del responsabile degli affari economici, Olli Rehn, ha ribadito non si può dire niente fino alla conferenza stampa di questa sera. Né si sa quanto tempo dovranno discutere i ministri finanziari dell'Eurogruppo per arrivare a una composizione. Ieri sera è arrivato qui a Bruxelles il premier greco Papademos, il quale parteciperà naturalmente insieme con Christine Lagarde, la direttrice del Fondo Monetario, alla riunione dell'Eurogruppo. I governi dell'Eurozona guardano un eventuale aiuto di BCE e banche centrali europee per ridurre il costo del secondo salvataggio alla Grecia che altrimenti arriverebbe a costare 170 miliardi di euro. Questo è quanto scrive oggi il Financial Times. I conti sono questi? Sì, i conti sono questi. Si tratta, adesso per la verità, il ruolo della BCE non è una cosa che è in discussione, ormai è acclarato, la BCE parteciperà all'operazione del debito, nel senso che ridistribuirà i profitti che ce ne saranno delle obbligazioni greche convertite, scambiate, però il punto vero riguarda essenzialmente il modo in cui sarà coperto il buco di bilancio nel 2012 e soprattutto chi controllerà l'uso dei fondi prestati. L'idea è quella di aprire un conto bloccato che non sia gestito dai greci in modo da mettere al riparo quanto dovrà essere ripagato per rimborsare il debito. È un elemento di forte sfiducia, come è ovvio, nei confronti della classe dirigente greca. E grazie allora ad Antonio Pollio Salimbeni e andiamo proprio a vedere come si vivono allora queste ore ad Atene. Ad Atene oggi inizia in Parlamento l'iter della manovra approvata una settimana fa da 3,3 miliardi di euro, con i dettagli sui tagli da 325 milioni che erano rimasti ancora da definire. Mercoledì la quinta manovra in due anni sarà messa al voto e sicuramente non mancheranno le consuete manifestazioni di protesta in piazza Sintagma. Atene ha anche annunciato che l'8 marzo partirà lo swap sul debito con i creditori privati, da concludersi entro l'11 marzo, 9 giorni prima la scadenza dei titoli per 14,5 miliardi che Atene deve rimborsare, altrimenti sarà default. I greci intanto, secondo un sondaggio dell'Istituto Mark pubblicato dal quotidiano Ethnos, sarebbero favorevoli all'euro per l'80% nonostante le misure di austerità. Quanto ai responsabili della crisi, il sondaggio indica che 4 su 5 sono i governi greci, mentre il 9% punta il dito sui mercati e gli speculatori internazionali. Il 6% invece prende di mira la troica, composta da UE, FMI e BCE. Per ora intanto occhi puntati su Bruxelles e le decisioni dell'Eurogruppo. Vittorio D'Arol, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eurogruppo che partirà alle 15, naturalmente ve lo racconteremo nelle edizioni prossime di GR24. Molte altre le notizie, ne parliamo tra poco, prima però apriamo anche una parentesi perché è calato il sipario sulla 62esima edizione del Festival di Sanremo. Allora, un bilancio ma soprattutto qualche suggerimento l'abbiamo chiesto a Mario Luzzato Fegiz, critico musicale, lo ha intervistato Adriana Fracchia. Il bilancio era senza chiaro, le canzoni erano brutte quest'anno, non c'era neanche un cazzo, tranne questi dei talent show che però diciamo acchiappano voti, quindi le canzoni sono state abbastanza deboli e questo è il problema principale. Cosa fare per lanciare il festival senza dover ricorrere a farfalline o a celentani? Il segreto sarebbe il budget che si è usato per queste operazioni, usarlo per scritturare cantanti grossi che con la sola presenza loro danno un senso spettacolare al festival. Quindi non c'è dubbio che questa è la soluzione. Naturalmente come si fa a trarre i big? Ma secondo me si potrebbe inventare, adesso dico una provocazione, dei meccanismi di sgravio fiscale, oppure dargli dei cachet importanti, e sono convinto che anche i nomi grossi scenderebbero in gara. E per noi le notizie di oggi di GR24, Monti a tutto campo a Piazza Affari, l'accordo sul lavoro si farà, poi la parola tornerà alla politica e sul fisco annuncia le risorse della lotta all'evasione vadano ai lavoratori onesti con una riduzione delle tasse. Lavoro in corso un nuovo tavolo, Fornero avverte, la riforma degli ammortizzatori sociali arriverà solo in autunno. In Afghanistan morti 3 militari italiani, un incidente in una missione di soccorso. In tribunale in India i maro italiani rischiano anche la morte, il ministro Terzi, molte divergenze sull'accaduto. E riprendiamo proprio sulle due questioni che ci portano all'estero, una vera e propria crisi diplomatica, quella che ha innescato la sparatoria di maro italiani che hanno ucciso pescatori indiani, ma intanto questa mattina si torna però a parlare anche di Afghanistan, perché 3 militari italiani sono morti per un incidente successo quando il lince su cui erano a bordo in un'attività di recupero di un'unità bloccata da avverse condizioni meteo si è ribaltato nell'attraversare un corso d'acqua. 3 dei militari dell'equipaggio sono rimasti intrappolati e hanno perso la vita, 1 è rimasto ferito. E allora sentiamo Alberto Negri. Al di là della crisi economica e finanziaria c'è un'Italia a rischio e che rischia la pelle ogni giorno. È quella dei nostri soldati schierati nelle missioni internazionali, operazioni difficili, dense di insidie, in scacchieri come l'Afghanistan, lontani migliaia di chilometri e di cui ci si ricorda soltanto a intermittenza. I 3 soldati che hanno perso la vita nel ribaltamento di un blindato in un'operazione di soccorso non sono meno eroici di altri uccisi negli scontri a fuoco e negli attentati lungo le strade e le vallate dell'Afghanistan. Questa missione, dal 2004, ha inghiottito le vite di quasi 50 militari italiani. E dobbiamo sapere che i nostri resteranno laggiù ancora a lungo, almeno fino al 2014, data del ritiro internazionale, ma non dell'impegno militare a fianco delle forze afghane. Anche l'apertura diplomatica degli Stati Uniti e del presidente Hamid Karzai a una trattativa con i talebani non allontanerà i pericoli, anzi potrebbe rendere la situazione più complicata. Noi vorremmo dimenticare l'Afghanistan, ma l'Afghanistan non si fa dimenticare facilmente. E dicevamo, intanto è braccio di ferro su un altro fronte, quello tra Italia e India, Elisabetta Fiorito. Sì, massima attenzione e forte solidarietà da parte del governo italiano per il caso dei 2 marò italiani che sono accusati di aver ucciso dalla petroliera Enrica Lexi 2 pescatori indiani scambiandoli per pirati al largo delle coste di Kerala. Il ministro degli esteri Giulio Terzi assicura che la tutela dei marinai è priorità assoluta e auspica anche la collaborazione con le autorità indiane. Ma sentiamo il ministro. Il governo segue con assoluta attenzione e veramente con una continuità continua la evoluzione della situazione riguardante la nostra nave in India. La protezione e la tutela dei marinai, dei militari italiani all'estero in missioni di pace, in missioni antipirateria, in missioni di sostegno alla sicurezza e alla pace internazionale, sono la priorità assoluta per il governo italiano, in un quadro di cooperazione internazionale di cui l'India è parte rilevante nel contesto Nazioni Unite, ma anche sul piano regionale. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono accusati di omicidio e rischiano la morte o l'ergastolo, ma il ministro della giustizia Paolo Severino spiega che la prova dello svolgimento dei fatti ancora non c'è stata per versioni che sono totalmente contrapposte tra le due parti. La posizione del governo è molto ferma, assicura Paolo Severino, sulla carenza di giurisdizione indiana. I rilevamenti satellitari provano infatti che la nave battente bandiera italiana era in acque internazionali e quindi la giurisdizione è nostra. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, poi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Intanto oggi però i due Marò compariranno davanti al tribunale indiano di Kollam, dove è stata organizzata anche una manifestazione anti-italiana. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone devono rispondere dell'accusa di omicidio. Hanno lasciato la guest house di Kochi nel sud dell'India, dove erano tenuti in custodia da ieri i due Marò accusati dell'uccisione dei due pescatori indiani. Davanti al tribunale di Kollam, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre devono rispondere dell'accusa di omicidio. Ai due militari, che si dicono completamente estranei alla vicenda, è stato notificato il provvedimento di fermo giudiziario, un provvedimento che gli esperti di diritto internazionale ritengono illegittimo. Sono molti i dubbi che avvolgono la vicenda, le incongruenze tra la versione indiana e quella italiana. Sul tavolo anche l'ipotesi che i due pescatori siano stati uccisi in un diverso conflitto a fuoco, che nulla avrebbe a che vedere con la petroliera italiana Enrica Lexi, a bordo della quale si trovavano i due Marò. A complicare la vicenda la sua localizzazione nello stato del Kerala, una sorta di stato nello stato indiano, con attitudini diplomatiche diverse da quelle di New Delhi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca dall'Italia, operazione antiusura dei carabinieri di Cosenza che hanno arrestato 10 persone. Gli indagati sono accusati di aver prestato circa 500.000 euro a pensionati, commercianti e piccoli imprenditori, applicando tassi di interesse che variano dal 10 al 40% mensile. E a Napoli invece sono scattati questa mattina arresti per corruzione. Ci sono anche Angelo Palazzo, responsabile provinciale di Napoli della Provveditorato alle Opere Pubbliche Campania Molise, e Vincenzo D'Agostino, direttore tecnico dello stesso ente, tra gli 8 arrestati dai carabinieri del NOE nell'inchiesta su un appalto da 18 milioni di euro per la realizzazione del nuovo polo tecnologico del CNR di Fuorigrotta a Napoli. In tutto sono finiti manette 3 funzionari del Provveditorato, 4 imprenditori e un faccendiere di Villa Literno, referente della Lega Sud, che secondo gli inquirenti avrebbe millantato rapporti con la Lega Nord e con l'ex ministro della giustizia Castelli. L'accusa per tutti gli indagati è di corruzione aggravata. L'obiettivo di quella che viene definita dagli investigatori una cricca di basso livello era quello di condizionare l'aggiudicazione dei lavori pubblici anche attraverso un presunto accordo con ambienti politici e di scalare posizioni di potere nella pubblica amministrazione. Se l'operazione fosse andata a buon fine, infatti, Palazzo sarebbe stato nominato provveditore alle opere pubbliche al posto dell'attuale Giovanni Guglielmo, completamente estraneo alla vicenda. Secondo gli uomini del NOE, la cricca avrebbe inoltre fatto degli errori maldestri nella gestione dell'operazione. Il beneficiario di questo appalto, nelle intenzioni della cordata, doveva essere una società di costruzioni che però non ha vinto l'appalto. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Altro tema toccato dal Premier Monti nel suo discorso, quello della lotta all'evasione fiscale, ve l'abbiamo raccontato in apertura, un tema su cui molto ci stiamo soffermando a Radio 24, al momento della nostra consueta rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Paese sommerso anche online. Per le caratteristiche della rete è difficile stimare quanto vale esattamente l'evasione ottenuta attraverso siti d'aste come eBay, ma anche social network come Facebook e Twitter. Di certo è un territorio vasto, relativamente nuovo, in parte inesplorato, in cui sembra più facile che altrove violare le regole e nel quale si muove una squadra di agenti speciali del fisco a caccia di furbetti del web che si spacciano per normali cittadini intenzionati a vendere oggetti, ma che in realtà sono rivenditori veri e propri. E questo a danno dei negozianti, che invece rispettano le leggi su internet o altrove. Infatti, a differenza di questi ultimi, evadono l'IVA. Lo facevano, per esempio, due internet point di Empoli, che si rifornivano in Estremo Oriente di cellulari a 40 euro e senza pagare l'imposta li rivendevano online a 150, un trucchetto che ha fruttato loro 600.000 euro. Alla fine, però, sono caduti nella rete, questa volta non virtuale, ma del fisco. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I tribunali tagliano 400.000 cause, ecco che succede con la riforma dei conciliatori, oggi a raccontarlo è Il Sole 24 Ore. Nei tribunali ci saranno 400.000 cause in meno, è l'effetto della fase 2 della conciliazione obbligatoria che sta scaldando i motori per poi decollare il 20 marzo. Da quella data anche le liti in materia di condominio e responsabilità civile auto dovranno, prima di finire davanti al giudice, tentare la strada dell'accordo presso uno dei 40.000 mediatori. Tanti sono infatti, secondo le stime degli operatori del settore, quelli iscritti nei 782 organismi di conciliazione in attività. La categoria scommette molto sulla novità in arrivo, perché i settori del condominio e della RC auto dovrebbero assicurare 320.000 nuove cause, che andranno ad aggiungersi alle 80.000 che in questo primo anno di mediazione obbligatoria sono state dirottate dal tribunale ai mediatori, anche se in realtà solo una parte di quei fascicoli è stata poi effettivamente conciliata. Un mercato dunque che per ora non ha dato molte soddisfazioni ai tanti mediatori, che per questo aspettano con ansia la primavera. Antonello Cherchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:25 minuti in questo istante, allora siamo al sport, cominciamo col calcio perché ormai si guarda al big match del prossimo fine settimana. L'appuntamento è sabato prossimo a San Siro, non è una sfida scudetto, ma poco ci manca. Il Milan è caricato a pallettone, il brillante 3-1 sul Cesena con il gol della new entry Muntari è un pieno di energia pura. Oltre al sorpasso, che non è poco, i rossoneri sentono che la Juventus è affondabile, con o senza Ibrahimovic. Senza Ibra, infatti, manca il deux ex machina, ma si alza il livello collettivo. In assenza del capoclasse, insomma, anche gli altri diventano secchioni. E poi ci sono i nuovi arrivati, che hanno una gran voglia di far bella figura e battezzano ogni debutto a suon di gol. Sentiamo l'allenatore Allegri. No, non è questione né di rivincere né di aver visto lungo. La società ha portato dentro Muntari all'ultimo giorno di mercato e ha fatto un ottimo acquisto, come ha fatto tutti gli altri acquisti che sono stati eccezionali da quando sono arrivati da Milano. Quanto a Ibrahimovic, Allegri, oltre a punzecchiare Conte per il discusso gol di Chiellini, dice la cosa più sensata: meglio averlo che non averlo. Aspetto quello che decideranno i giudici, se toglie una giornata. Io, quando abbiamo giocato contro la Roma, dissi che Totti era meglio che non giocava. Ora che sono dalla parte del Milan è meglio che Ibra giochi, questo è normale. Credo che sarà una bella sfida, una sfida affascinante, è una sfida che varrà il campionato sicuramente. A livello psicologico sarà sì una finale scudetto, finora infatti il Milan contro le grandi ha patito, mentre la Juventus, proprio in forza del suo carattere, ha quasi sempre prevalso. Da una parte quindi il fascino del talento, sempre spregiudicato dei rossoneri, dall'altro la forza di un collettivo, quello bianconero, che quando gioca in salita si esalta ancora di più. Piatto ricco, insomma, speriamo che tra una polemica e l'altra non bruci tutto. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E resta aperto però un altro fronte di polemica, perché poco fa il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha inviato una nuova lettera al governo. L'inattesa decisione del Consiglio dei Ministri di non appoggiare la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici, scrive Alemanno, ci costringe a modificare profondamente le prospettive di sviluppo della nostra città. Così nella lettera inviata a Mario Monti, il nostro progetto avrebbe messo in moto nella capitale 9,8 miliardi di finanziamenti che ora non ci saranno più. Quindi tutto da rivedere per la capitale, così scrive ancora polemicamente Gianni Alemanno. E per questa edizione di GR24 era l'ultima notizia. Io vi lascio con Italia in controluce, Paolo Corleoni in regia, da Anna Migliorati e ancora una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.